A bordo campo di Dario Ricci. Prima il modello inglese, poi il modello francese, poi adesso, dopo il trionfo mondiale, il modello tedesco. Beh, oggi a bordo campo, per carità, non fraintendete, non parliamo certo della riforma del Senato, che è ampiamente dibattuta in altre sedi anche qui a Radio 24, però parliamo dei vari modelli cui sta guardando il nostro calcio per ripartire dopo il disastro del mondiale brasiliano, che succede tra l'altro al KO anche nel mondiale precedente in Sudafrica. Insomma, si guarda all'estero per cercare il modello vincente, si fa la tara a quelli che sono i tanti limiti strutturali del nostro calcio, però ci sono in Italia anche delle realtà sportive vincenti, quindi vuol dire che in alcune situazioni, in alcuni momenti, con alcune figure di riferimento, siamo ancora in grado, pur nel momento della crisi internazionale, dei paesi emergenti, eccetera, eccetera, di fare sport ad alto livello. E allora, per ragionare di tutto questo, mi è venuto in mente di fare uno squillo a un amico di Radio 24 di A Bordo Campo, classe 75, pisano, un bel po' di medaglie mondiali olimpiche in bacheca nel fioretto maschile, tra cui 4 ori mondiali, non dimentichiamolo, ma anche commentatore per Sky della Serie B di calcio, presidente del CONI Toscana. Beh, insomma, ormai avete capito chi è dall'altra parte della cornetta. Benvenuto a bordo campo a Radio 24, ben ritrovato a Salvatore Sanzo. Grazie, ben ritrovati voi, è stato un piacere. Allora Salvatore, ti ho richiamato in pedana, perché? Perché i disastri del calcio nostrano, dentro e fuori dal campo, per non aggiungere altro, fanno da contraltare al successo di altri sport che combattono con gli stessi avversari, agguerriti, ma che riusciamo a tenere dietro. Beh, è facile il paragone con i recenti mondiali di scherma di Kazan, no? Direi che pure stavolta la tua scherma ha fatto bottino pieno. Devo dire che è un tema che dibattuto ormai da tanti anni, da quando io ancora facevo l'atleta, e adesso da dirigente sportivo ci ritroviamo sempre a commentare casi analoghi, anche se poi, insomma, non dobbiamo dimenticare che nel 2006 l'Italia di calcio ha vinto i campionati del mondo. Io devo essere sincero, tu dicevi prima modello inglese, modello francese, adesso il modello tedesco. Io credo che noi dobbiamo ricercare il modello italiano, modello italiano vincente, quindi giusto, come dire, copiare, giusto prendere ad esempio lo spunto, ma anche capire quella che è la nostra realtà. Ecco, forse è questo il vero nodo, cioè noi ancora non abbiamo capito, non abbiamo piena consapevolezza di quella che è la nostra realtà e soprattutto dove vogliamo arrivare. Vogliamo crescere ed educare i nostri figli, i nostri ragazzi, in questo caso a giocare a calcio, oppure vogliamo educarli a un'attività motoria a 360 gradi? Ecco. Una volta che abbiamo una risposta a questa domanda, forse riusciremo a poter dire la nostra. Ecco, domanda centrale, anche perché ti chiedo, partiamo da questo aspetto, dal punto di vista culturale, spesso in Italia, se tuo figlio o tua figlia non riescono, diciamo soprattutto nel caso maschile, non riescono a sfondare nel calcio, sono visti un po' come degli sfigati che devono ripiegare su altri sport. Secondo te c'è ancora questa mentalità dominante? Probabilmente sì, insomma, in Italia siamo tutti calciofili in maniera attiva o meno, però siamo tutti senza dubbio tifosi di una squadra, tifosi di qualche calciatore, abbiamo il nostro idolo, il nostro punto di riferimento. Non credo francamente al tema di dire se non vado bene a calcio allora ripiego su altre discipline sportive. Io sono un fanatico del calcio, l'ho sempre praticato, ma in maniera assolutamente ludica, anche durante la mia attività, però in realtà ho praticato sempre soltanto la disciplina sportiva che era la scherma, e come me, devo dire, conosco tanti altri campioni, ma anche non campioni, che hanno deciso di praticare altri sport. Ti chiedo, c'è però questo aspetto per cui quel reclutamento che sembra non funzionare nel calcio, no? Anche a livello di vivai non si riesce più a individuare i giovani talenti e a lanciarli con convinzione. Ecco, perché invece questo sistema di reclutamento, magari strutturato in modo diverso, però in altri sport sembra funzionare. Mi viene in mente la scherma, appunto, vediamo il fioretto femminile, ma anche gli uomini, insomma, abbiamo una nazionale fortissima, ma vedo anche per esempio la pallanuoto, che pure con tecnici lungimiranti, con una certa organizzazione e dove gli avversari certo non mancano, perché ci sono almeno 7-8 nazionali di livello internazionale solamente in Europa, ebbene riusciamo a essere sempre comunque competitivi, a costruire dei cicli. Ecco, ma perché questo meccanismo non si riesce ad adottare nel calcio? Io penso che sia una questione di carattere culturale. Oggi l'insegnante di calcio, delle squadre giovanili di calcio, per il 90%, adesso butto lì una percentuale probabilmente troppo alta o forse troppo bassa, in realtà è un cosiddetto dopolavorista e quindi non ha quella preparazione di base che magari invece hanno in altre discipline sportive, altri allenatori, altri tecnici. Io questo, come dire, lo dico anche da genitore, ecco. Ho una prova provata, ecco, da genitore di un bambino di neanche 7 anni che gioca a calcio e pratica anche scherma, insomma, si diverte 4 volte alla settimana a fare sport. In Direi che realtà, ha ripreso dal papà, insomma. sì, esatto, chissà come mai. In realtà io penso davvero che manchi questo, cioè manchi l'educazione motoria a 360 gradi dei nostri figli. Si insegna più a capire quanto si è alti o quanto si è grossi piuttosto che a imparare il gesto tecnico. Ecco, da noi probabilmente un Messi non riuscirebbe a crescere, mentre invece magari un Pogba, tanto per fare un esempio calzante, riuscirebbe ad emergere, al di là ovviamente degli evidenti valori di entrambi i giocatori. Insomma. Però ecco, dal punto di vista della struttura del reclutamento c'è grande differenza. Cioè, per esempio, nella scherma ci sono tantissimi enclave, no? Che potrebbero essere rivali e sicuramente lo sono. Mi viene in mente la scuola toscana, Pisano-Livornese. Scusate se v'accosto, No, no, non vi ah no, in risentite. realtà siamo amici, per Infatti, carità. poi Mestre, Catania, la scuola Yes. romana, Milano, insomma tanti centri che in realtà, vabbè, Jesi chiaramente poi è la capitale mondiale, però per dire tanti centri che riescono a mettere in piedi una rivalità che poi produce atleti di vertice. Perché questo secondo te nel calcio non scatta? Nel calcio non scatta il meccanismo, come dicevo prima, del coraggio anche, no? Io penso a un giocatore come Verratti, cioè un classe 92 giovanissimo che ha fatto a Pescara cose straordinarie e che poi in realtà non è riuscito mai a giocare in Serie A. Questo secondo me è un elemento di riflessione. Come mai in Francia hanno scommesso su Verratti e invece nessun club italiano di alto livello ha scommesso su un giocatore che, come dire, si vedeva benissimo, sarebbe diventato un giocatore di alto livello. Nella scherma invece questo avviene, se tu hai un ragazzino che promette, lo butti nella mischia, lo provi nelle gare di Coppa del Mondo, non hai paura, probabilmente non hai paura perché se buca lui, in realtà poi ci sono tanti altri che ottengono risultati e quindi alla fine il saldo finale è sempre positivo. Questo nella scherma, ma penso anche ad altre discipline sportive. Ecco, forse l'elemento coraggio è l'elemento che serve alle società, serve ai presidenti, serve anche alla tifoseria che comunque fa opinione anche proprio per le società stesse. Direi che c'è anche un problema di classe dirigente, diciamo, chiaramente mi rendo conto che poi ti tiro in ballo direttamente, visto anche il tuo ruolo come presidente di CONI Toscana, ma al netto dei presenti, diciamo così, Sì. c'è Poi un... diciamo che poi il tema adesso non è molto di attualità, no? No, no, apposta, diciamo, sì, è marginale nel dibattito. Esatto. Però, a parte questo, c'è, a parte i risultati finali, chiaramente così come nasce il campione in pedana o nello sport, anche tutti i dirigenti non possono essere uguali, però c'è anche un problema di cursus honorum, cioè di formazione, di come si arriva, no? A ricoprire certi incarichi, a sedere su certe poltrone. Da questo punto di vista, ancora in Italia non c'è un percorso definito a livello, diciamo, anche sportivo universitario, se così possiamo dire. È vero, io nell'elemento cultura dello sport metto in evidenza anche sempre questo aspetto. Effettivamente bisognerebbe investire di più in formazione a 360 gradi, quindi sì, gli operatori tecnici, ma ovviamente anche i dirigenti, soprattutto magari di società di base, però poi evidentemente anche di alto livello. Su questo credo che la scuola dello sport nazionale del CONI sta senza dubbio operando e lavorando, e così anche noi a livello territoriale, ma gli elementi di crescita sono sicuramente molto, molto ampi. Ci sono però, è vero, alcune federazioni che non vogliono andare oltre, che cercano, come dire, di difendere un po' il proprio orticello, e allora dobbiamo crescere, perché chiaramente questo è un sistema che non funziona più. Non funziona più il sistema paese, e lo vediamo, ma non funziona neanche più il sistema paese legato allo sport. L'innovazione Giovanni Malagò, e quindi a cascata di tanti altri presidenti regionali come il sottoscritto, secondo me va verso questa direzione. Beh, direi che avete parecchio lavoro da fare, Salvatore, direi di sì. Beh, allora, fra poco vi lascio, però un'ultima domanda che mi incuriosisce. Tutto ancora italico è il problema della gestione della sconfitta, no? Nel senso che io vedo l'Inghilterra dal 66 nel calcio non vince niente, eppure gestiscono questo problema alla grande, organizzano olimpiadi e vincono in altri sport, dove probabilmente, proprio perché c'è una cultura sportiva diversificata, per cui un successo della nazionale di rugby vale quanto, forse di più, quello del calcio. Stessa cosa in Francia, e poi tornano a vincere anche nella mata pedata. Da noi, quando perde il calcio, effettivamente gli sport minori vengono fagocitati in questa voragine, e quelle medaglie che pure brillano quasi vengono relegate alle ultimissime pagine. Beh, devo dire che il governo, da questo punto di vista, invece sta dando grande ribalta anche a questi sport. Presidente Renzi, con il sottosegretario Del Rio, riceverà a breve anche le fiorettiste, ovviamente Nibali, penso alle due tenniste Errani e Vinci. Insomma, da questo punto di vista c'è una crescita importante e significativa. È chiaro che il calcio rappresenta lo sport principale, ma non sono io a dirlo, insomma sono i numeri, sono le pagine dei giornali, sono l'interesse di tutti noi, quindi è evidente che rappresenta forse uno dei 10 punti più importanti del nostro vivere, quindi ha un'importanza fondamentale, e dobbiamo farci conti, per cui il calcio deve crescere, deve fare autocritica e deve, a mio parere, anche riformarsi, e lo deve fare con grande cura e con grande forza. E allora staremo a vedere se la nostra pedata riuscirà a perseguire questo sentiero tutto in salita. Intanto un grande in bocca al lupo a Salvatore Sanzio per il tanto lavoro che ha da fare nei suoi diversi ruoli, e grazie per venire a trovarci ogni tanto qui a Radio 24 e a Bordo Campo. Grazie a voi, quando volete, con grande piacere. A Bordo Campo. 4 ori, un argento e 3 bronzi. Ma insomma, in questa estate travagliata del calcio italiano, ma chi l'ha detto che c'è lo sport italiano, appunto, che non vince più? L'abbiamo visto dalla scherma, l'abbiamo visto dalla pallanuoto, e lo vediamo anche dimostrato da questo palmarès di tutto rispetto che porta a casa dai recenti europei juniores e giovanili di Assisi la box italiana. Una box d'altra parte del tutto particolare, perché non è la box dei Cammarelle, Russo, dei campionissimi del nostro pugilato olimpico, ma è la box in rosa, sì, la box femminile che, come ricordate, come sapete bene, appena a Londra 2012 è entrata nel programma olimpico, 2 anni fa nelle Olimpiadi londinesi, ai noi, non c'erano campionesse italiane, ma adesso guarda a Rio 2016, e questi risultati ottenuti dalle nostre ragazze ad Assisi fanno davvero ben sperare per il futuro. E allora ne parliamo oggi con i nostri ospiti. Il primo è Emanuele Renzini, responsabile tecnico dell'Italian Boxing Team delle nazionali femminili. Benvenuto Emanuele a Radio 24 a Bordo Campo. Buongiorno. Beh, buongiorno. Allora, coach, direi che c'è stato parecchio da spellarsi le mani ad Assisi, ad applaudire alle sue ragazze. Beh, diciamo che è andato molto bene, sì, siamo tutti molto soddisfatti, in primis il presidente Brasca, che mi ha fatto i complimenti per i risultati ottenuti. Devo dire che c'è molto entusiasmo nel settore femminile, perché si punta alla Olimpiade, adesso finalmente siamo inseriti nel programma olimpico, cioè, lo eravamo già da Londra, ma non eravamo ancora pronti, diciamo, con le atlete per ambire alla partecipazione. Ora siamo pronti, ci abbiamo le atlete, ci abbiamo tanta grinta e quindi speriamo di far bene, insomma, ecco. I presupposti ci sono. Ecco, ricordiamo tra l'altro che nel programma olimpico non sono coinvolte tutte le categorie di peso a livello femminile, vero? Purtroppo ancora no. Le categorie sono 3, 51, 60 e 75 kg. Il processo sarà ancora abbastanza lungo perché il tentativo di inserirne 6 è andato male per questa volta, diciamo, per le Olimpiadi di Rio. Ma sicuramente le Olimpiadi del 2020 vedranno 6 categorie in gara. Nel frattempo a Baku nel 2015 ci saranno le Olimpiadi europee e lì ce ne saranno 5 di categorie, quindi già è un passaggio importante questo. Ecco, movimento quindi in continua espansione. In Italia direi che c'è stata una crescita esponenziale, perché fino all'altro ieri avevamo delle punte, delle vette, ricordo la Bianchini, la Galassi, che ancora a livello professionistico tuttora sul ring, qualche altra pugilessa di altissimo livello, ma ora quella che si sta allargando è un po' proprio la base, no Emanuele? Sì, assolutamente sì. Nel 2001, quando abbiamo iniziato, non mancavano elementi di qualità, ma purtroppo erano pochi. E la Galassi su tutte, ovviamente, che ha vinto tutto quello che c'era da vincere, e purtroppo, diciamo, non era ancora nel programma olimpico la disciplina e perciò non ha potuto partecipare alle Olimpiadi, ma i mondiali ne ha 23, di europei ne ha 23 e poi dopo passata professionista ha avuto i suoi risultati. E adesso invece abbiamo veramente una bella base, cioè abbiamo tutte le categorie coperte da atlete competitive che danno risultati, insomma, danno risultati in tutti i campionati intercontinentali. Ecco, il quadro a livello europeo, no? Rimanendo a quello che è stato un po' il confronto sul ring ad Assisi, qual è? Quali sono le nazioni guida a cui rifarsi e quali invece quelle con cui già ce la giochiamo, direi parecchie, viste i risultati? Ma diciamo che attualmente ce la giochiamo con tutti, ovviamente la Russia è quella che finisce sempre prima nel medagliere perché avendo dei grandi numeri, perché in Russia ci sono migliaia e migliaia di ragazze che praticano questa disciplina, riescono a coprire tutte le categorie. Noi ancora non riusciamo ad essere competitivi in tutte le categorie, però il confronto diretto Italia-Russia in questo campionato sta a nostro vantaggio. L'abbiamo incontrati 3 volte negli junior, abbiamo vinto 2 match, perso 1, insomma in totale mi sembra che sia 3-2 per l'Italia il confronto diretto Italia-Russia, perciò noi nelle categorie in cui siamo presenti siamo competitivi tanto quanto la Russia, ovviamente poi loro hanno tutte le categorie, riescono a finire sempre primi nel medagliere. Beh, vabbè, non diamolo per scontato e so che le sue ragazze hanno parecchia voglia di ribaltare queste gerarchie. Le chiedo ancora Emanuele Renzini, il CT dell'Italia femminile della box, quali sono ora i passaggi chiave da qui a Rio 2016? Mancano ancora 2 anni, ma per voi atleti olimpici so che sono veramente un soffio di vento, quindi si lavora a tappe forzate verso quel ring olimpico. Dunque, il prossimo appuntamento saranno i campionati del mondo in Corea in novembre, perciò noi adesso inizieremo subito la preparazione e questo campionato del mondo poi ci darà un pochino le informazioni necessarie per formare la squadra che andrà a tentare la qualificazione olimpica. Tutto l'anno 2015 sarà orientato a portare 3 atlete, perché sono purtroppo solo 3 le categorie, a tentare di qualificarsi. La qualificazione sarà in febbraio 2016, in 2 tappe. La prima tappa sono i campionati del mondo e la seconda tappa un torneo continentale di recupero, dove si qualificheranno ulteriori 2 atlete per categoria. Quindi insomma c'è parecchio da far di guanti per riuscire a salire su quel ring di Rio 2016. Direi che questo primo passaggio importante di Assisi però è stato il miglior viatico possibile, no Emanuele? Assolutamente, assolutamente sì, perché questo diciamo ci dà la continuità, cioè, per il futuro, insomma, ecco. Le giovani ci sono sotto che spingono, che vogliono crescere, e quindi questo ci fa stare tranquilli che superata questo quadriennio olimpico non ci sarà il nulla come è successo in passato per la prima mandata, diciamo. La squadra capitanata da Simona Galassi ha fatto grandi risultati, ma poi dietro purtroppo c'è stato un quadriennio di buco perché non si aveva la base di giovani per rimpiazzarle, ecco, insomma. Questa volta invece siamo ben forniti di atleti. Eh sì, l'importante è che si stia costruendo una vera e propria scuola, perché su quella base poi sarà più facile pescare i talenti dell'oggi e del domani. Allora, in bocca al lupo Emanuele Renzini, il responsabile tecnico grazie. Delle nazionali femminili azzurre di box, e grazie per essere stato nostro ospite oggi a bordo campo. Grazie a voi. E allora abbiamo sentito Emanuele Renzini, responsabile tecnico dell'Italian Boxing Team delle nazionali femminili. Restiamo allora nell'angolo delle azzurre con la nostra seconda ospite, sì, ospite, seconda ospite, quindi una pugilessa, vediamo se le piace il termine. Laura Tosti, tecnico dell'Italia Boxing nazionali femminili, va bene pugilessa? Va benissimo, pugilessa, va benissimo. Salve a tutti. Laura, allora toglici subito una curiosità. Come ti sei avvicinata tu alla box? Io facevo kickboxing, poi era partita l'avventura del pugilato femminile con Emanuele nel 2001, con Simona Galassi e le altre storiche, che reclutava, diciamo, dagli sport di combattimento per iniziare l'avventura con il pugilato femminile. E io per gioco 2 anni dopo mi sono avvicinata. Beh, insomma, comunque già ti piaceva un po' menare le mani, seppur sul ring, tutto sommato. Ma sì, diciamo di sì. Ecco, qual è la cosa che più affascina nella box a una ragazza, a una donna che si avvicina a questo sport? Molti dicono la possibilità di scaricare la rabbia, oppure a me, per esempio, che sono pugile, diciamo, anzi uso questo termine tra virgolette, assolutamente di infimo valore, sono davvero molto affascinato dalla ritmicità del gesto, dal fatto che la box fatta a un certo livello è veramente quasi una danza. Qual è invece la cosa che più ti ha affascinato? Il fatto che ci vuole una grande preparazione fisica e una forza di volontà enorme, perché sì, noi abbiamo davanti l'avversario, ma il tuo grande avversario è sempre contro noi stesse, il cercare di fare sempre meglio, è questo che ci mette di più alla prova. Senti, i risultati di Assisi confermano che il movimento è in crescita, no? Questo vale sia per la qualità, e le medaglie lo confermerebbero, e anche per la quantità, cioè si sta espandendo, c'è più possibilità di scelta, quindi anche c'è maggiore opportunità di costruire e pescare dei talenti su cui lavorare. Sì, sì, sì. Meno male che c'è stata questa crescita, anche dovuta al fatto che il pugilato femminile è diventato sport olimpico, per ora solo con 3 categorie, 51, 60, 75, ma speriamo che ne vengano aggiunte di più. E questo ha fatto in modo che si espanda il movimento femminile, e i numeri ce lo confermano. Ecco, per quanto riguarda proprio il caso italiano, di che numeri parliamo, di che dimensioni ha il nostro movimento? 500-600 tesserate. Beh, che comunque non sono poche, dai, si può pescare. No, rispetto, diciamo, agli anni precedenti sono cresciute di molto e stanno ancora crescendo, perché sempre più ragazze, sia in età adulta che giovani ragazzini come chi ha partecipato ai campionati europei, si stanno avvicinando. E le peculiarità tecniche della box al femminile, quali sono? Ci sono degli accorgimenti particolari? Come andate a impostare queste ragazze? Oppure dal punto di vista tecnico, tutto sommato, grandi differenze con gli uomini non ce ne sono? Dal punto di vista tecnico no, grandi differenze non ce ne sono. Però la donna, per la mia esperienza, per quello che ho avuto a vedere, tende a essere mentalmente più forte dell'uomo, ha più determinazione. Ah, addirittura, insomma, quindi c'avete anche un piccolo vantaggio, piccolo grande direi. Ma sì, sì, sì, diciamo così, diciamo. Invece ecco, i passi che ancora sono da compiere per colmare un gap di popolarità e anche di movimento, di risorse economiche? Ancora il pugilato femminile deve fare tanta strada, perché essendo solo 3 categorie olimpiche si lascia un pochino più indietro della femminile, e quindi le risorse sono minore rispetto alla maschile, quindi a volte ci dobbiamo, tra virgolette, arrangiare. Però con questi risultati andremo forte in futuro, sotto tutti i punti di vista. Beh, anche con questi tecnici, perché il fatto che tu sia all'angolo con la tua esperienza insieme a tutto il resto dello staff della Federbox sicuramente vuol dire che le azzurre sono in buone mani o in buoni guantoni, dai, diciamo, perdonami la battutaccia. Laura Tosti, allora, grazie per essere stata nostra ospite, buona box, buoni guanti. Grazie, arrivederci. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it, anche in podcast, dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo e scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. A Bordo Campo torna come sempre domenica prossima alle 16.30 e in replica il sabato mattina alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.